so. E ora verrà. Niente, cosa va? Va, come va, mi sto un pochetto pesato, se no. Mi si è fatto il culo come te la braccia. Ma stai? Ah, c'hai sedere. No, se troppo seduta già lo grida a chiunque, soprattutto io che molto seduto non penso che abituato. Vabbè, vabbè, ma io sono sdraiato. Io poi faccio la gente come ti si chiama, sono sempre in movimento. Quando mi posso non mi fa molto piacere. Vabbè. Se vorrebbe un cuscino. Come quello per le morruide. No, no, per quello, no, per quello, no. Perché io gioco così, proprio. A me giochi prima su Vazianietti. Ma cosa vuoi, questa musica è andata, c'è qua. Allora sentiamo. No, non la sento. Musica tutto volume. Dove sei riuscito? Ciao. No, che cosa? Perché se la tu sei avvicinato, eh. Allora. Io è fuori, boh. Sicuramente fuori, mi è avvicinato lì. Come hai detto volume? Che ne ammira. Ehi, sono Tiasi. Tiasi, va di noti, io. No, più casino. Si buono ne ha sulla chitarra, in realtà, chissà che quanto li mandato. Certo, passa a quelli, passa, ti preoccorreggi, una donna di chi una cattola di chi si palloncini, una confezione, di chi ti imbustina, di chi si palloncini con lei, ma non tanto bisogno di più di uno. Non è così, no, guardate che non va via. Anche se si può andare a piazza, ma anche... No, si intende, no? Non si intende. Io avrò occupato a tirarle. No, è che loro ci mettono nella spiaggia, nella piazza della Mediana, dico. Ma intendete, intendete, ma quella roba non ti la fai. Un po' difficile, ma no? Chiappa, e anche magari non controllarsi barazze. E vabbè, potete chiamare i carabinieri, perché se lo dicono a voce niente, alla fine chiamano i carabinieri. Ma non rifate niente, non rifate, e cosa fate? Arrivi in equipi, ragazzi, state calmi, bomba. Ma poi la prossima volta sono troppo da capo. Ah, fagli fare. Chiappa. Non già le sappiamo queste cose, non è che non le sappiamo. La cosa migliore se uno non le vuole sentire la vendetta. Cioè, è inutile che stiamo lì a girarla. O qualcuno di chi ti viene vede e chi si prepara i palloncini e viene leva. Verifico da qualcuno, la verifico da barre. Guarda che no, appena piano non puoi tornare più. E Mario, non ci andai? No, non sto andando. No, non ci sto andando per un semplice motivo che... Cioè, se andava non riesce a travagliare, che mi brucia tutto. Ed è un casino. E basta prendere sole che esattamente vai dalle 8 a mezzogiorno, il sole non è potente. È bello, molto più bello di andare tutto il giorno e che tra il barricato. E tutto. Noi siamo andati dalle 8 a mezzogiorno, si stava benissimo. No, io invece preferisco. È micidiale, soprattutto quando pone l'acqua salata, che sul sole è micidiale. Io invece preferisco, se ci vado, andare quando gioco in fine, tranquillo, e via. quando si infili, no? Quando si infili non vai nulla di scappa, quando gioco tranquillo, non so fare rompermi la scatola, allora posso anche farlo. Se no, no, no, non esiste. Noi andiamo sempre dalle 8 di mattina sino a mezzogiorno. Sono le ore di qui chiuse. Chiappa, no, io... Ecco, ma che arrivi l'una è l'ora di punta a me. Ah, l'una, a mezzogiorno. A mezzogiorno ce ne stiamo già andando. Chiappa. Ho provato anche andare più presto io, è micidiale, guarda, fra l'acqua salata e il sole è una cosa micidiale. Saga? Brucia proprio, ma adesso sì. Ma di cammello una volta ti ho detto di fare, per abbronzarsi, di mettersi olio, acqua di mare e limone. Un pesce frisco più presente qui, tanto era io. Ora ma si è bruciata, se. Le piaghe mi sono venute, ho dovuto più curare le piaghe perché avevo vergogna anche a dire la mamma. Grappa, perché questo web era intelligente? Una mia amica, Ehi, cara, che ve l'ha detto? Ah, qualche uno che dice che lo fa, che anticamente facevano così, gli ha detto così, non so chi l'abbia detto. Qualche amico, dopo, non so. Ho detto che anticamente facevano così, olio, acqua di mare e limone. Tu si è affatto, ma è come ti sei già avvissa. Chiappa, nel di dietro se la doveva mettere. Le piaghe di sopravvivere, tutta la schiena piena di piaghe, dovevo spalmare l'acqua matta io perché si vergognava di dirlo la mano. Chiappa. Ma certo che è un gran delinquente anche chi gliel'ha detto. Ma lei magari aveva la pelle delicata. Magari non va bene per tutti, capito? Magari a qualcuno va bene, agli altri no. Ma quelle cose non si fanno, dai. Ci vogliono le protezioni giuste e basta. Ma la gente proprio che no, non va a capo, non va. Secondo me li per fare cose del genere. È micidiale, perché l'acqua di mare c'è il sale, in più c'è l'olio che frigge, che proprio ti bollisce. La poi un limone, olio, mi accorte. Beh, come ti chiedi a bruciata? Ah, solo a dillo si brucia. Perché l'olio ti fa bruciare. Ma già lo credo io. Poi io non ho l'oliva, capito? Che deve essere, deve essere proprio se non ti preoccupare. Ti ha messo l'olio di oliva di chi si a paese, a casa sua. Oh, come si è combinata quell'anno. Mi faceva anche a me impressione a toccarla, avevo paura. Gatta, vabbè, bisognava procurarla, questa ragazza. Ah, ma neanche. Se me l'avevo dato io l'uso, ha detto. Era l'usare, era grosso. Siamo di guerra. Ma secondo ogni agosto, ogni abito di piaga che va via. E gli ho detto, ah, se la faccio te lo giuro io, sia ben chiaro che se dopo questa passaggio di pomate di cose non ti passa, devi per forza andare all'ospedale. Già, fanno, ma se l'hai curata già c'è, molte volte già ce la fai. Cioè, ma essere delinquenti comunque a fare cose del genere. Io non me ne avrei mai messo in quella roba, dico la verità, l'avevo comparata. Gappa. No, io ce l'ho fatta, grazie a Dio, me l'ho fatto passare, però un bel po' ci voluto. Beh, è una razza di gabbo che va, capisce? Per carità, guarda. Ma a volte noi diamo retta troppo a quello che ci dice la gente. gli ha dato torretta, l'ha subito fatto, sai come sono le donne, e il cavallo mi ha fatto affrontare un bel abitato e per abbondarsi in fretta, siccome il canagione è anche bianco, cazzo, l'ha peggiorato la situazione. Beh, io già, a me già mi piace di così, no, non mi interessa. Beh, ma c'è gente, io per dire mi metto la pomata per la protezione, perché sono un po' delicato, sembra così, ma di pelle sono un po' delicato, mi si fa scritto rossa, rosso fuoco. Sì, no, no, a me. Meglio, meglio nulla. Su queste cose qua sono molto delicato anch'io. Gappa, gappa. Io sono sempre per la protezione, più che altro. Gappa. No, io invece... Cioè, anche a me piace la protezione. Con la verità io non ne ho mai messo di quella roba. Sempre è andato così. I saponi di crema e cose strane. Ma ripeto, io mi sarei fidato poco degli altri. Cappa. Beh, normale. Ma sai che quando viene a casa cosa mi dice? Già te lo ricordi? Mamma mia, dice, non mi ricordare il dolore. Già lo so, già. Purtroppo, mi ha sciolto la cosa. Mi ha bruciato tutti gli strati della pelle proprio, mamma mia. Micidiale. Se mi si deve provare è come se ti metti la lente, la tu la lente al sole, no, e poi la punti sulla pelle, ma te si chiappa, già lo grido via, già lo credo, è come che tu ti punti una lente e cominci già a scioglierti piano piano, e uso la stessa cosa, è sicuramente micidiale quel col che te l'ha fatto. Comunque guarda, l'altra volta siamo andati al mare, ci ha dimenticato la pomata protettiva a casa e mia moglie si è presa di terra solare. Subito tutte le brugole sono uscite e siamo dovuti andare in farmacia a comprare subito la pomata. Cappa, cioè le ha fatto venire anche l'allergia dopo di chissà cosa. No, io mia moglie. Io mi sono fatto rosso rosso, io mi sono preso di tema solare, ma perché ce la siamo lasciati a casa sul tavolo la pomata? Ecco perché. Sa che io non ne ho mai messo di quello. E altro, anche prima lo so era sano, ma non è più sano il malato. I raggi non sono più filtrati, penetrano subito. Già lo so, già. Adesso se non ti metti la pomata protettiva ti prendi subito l'eritema solare e anche tumori alla pelle, tutte queste cose qua, risolve che il malato ti fa venire. Avvenne poco di bucaria già. Ma che mare venga a tramo, vedi tutto, già venne poco, a largo, in riva, al poetto, a casa di oggi. Hanno trovato questo macchione grande di petrolio, questa macchia tutta spiaggia, un casino a fare. Cappa, già lo stavo seguendo il giornale, lo dicono al signor Moratti a vedere cosa sta succedendo in quel capo delle sue cisterne. Che tempo fa l'aveva detto anche Mazzoli su Radio 105, che il signorino si lavava le cisterne in quei marili. Sai cos'è? Che ci sono qualche petroliera che ha scaricato le sentine, capito? Ha scaricato e hanno fatto tutta che si ammetta. Adesso stanno facendo il tiro con tutte le imbarcature che sono passate, ma è una cosa quasi impossibile. Si lavano anche le cisterne queste delinquente. E per quello che succede anche quello. cioè si lavano i bocchi, tutti quanti che si ricordano, non proprio la cisterna, ma i bocchettoni, eccetera, eccetera. Ma anche le navi scaricano, anche si sa com'è, no? Le navi a largo scaricano, a volte le trovi roba in mare che arriva col mare rosso, di tutto, frutta, di tutto, la ciabba, roba galleggiando, cappellini, di tutto. Ciabba, un bel mondezza, era tutto nel fondale. E dove c'è la nave lì è terribile, perché scaricano di tutto. Gamba, gamba, gamba. E se sono tutta appiccicata. Sudando stai già? È umido, è caldo umido, capito? Grazie. Però, grazie a Dio, no. Qua si sta bene. Ogni tanto tira un po' d'aria, poi la smette, nel momento che la smette è subito. Che ti procurò un ventilatore, la camera tua, a manco ti stai più bene. Ma se ne ho 3, Antonio, sono in cantina la mia suocera, da quando era pigliata. Pigliane una e piatta a Dio, cosa c'hai, ghibe, murende la rugaccio, uno anche piccolo, l'importante è che ti dia un po' di sollievo. No, ce ne sono tutti e tre grandi, di quelli col piedistallo che girano alti. Gaffa, trombigli uno, lo monti, già va bene lo stesso. Ma non è che puoi stare morendo dal caldo, no? Fatti una bella bella. Sì, vai, vai. Portati anche la bottiglia dell'acqua. No. Sento lì. Tu non mi hai abbandonato. E come qua? E ne ha approfittato e mi ha dato una sciacquata. Ah, adesso sì che si può ragionare. Mamma mi c'è un po' caldo di garofe, dai nocchi. Che sta bruciando il apparato. Davvero? E quello grande. È su internet, 120 euro, però da rilanciare. Già, fai il sudo in non dia. Kappa kappa. Vabbè, per chi vuole una stazione base come Giuseppe che non ce l'ha, eccetera, eccetera, è bellino. Kappa. Non aggiù già troppo in oggi. Ce ne può capitare in oggi. Uiuia. Vabbè, lo so, ma magari c'è sempre qualche cosa che ti piace di nuovo, fuori in corso. Adesso hanno fatto il 3009, come ce l'hai tu, 3009 nuovo, tutto quanto azzurro, un bel bello. E già lo so, già si somiglia al Magnum, più o meno. Cioè, la componentistica di quello lì. No, io non voglio più niente, no, già, no. Per il momento no, basta così, poi in futuro si vedrà. Ah, sto entrando su un altro sito dove ci sono dove c'è anche una donna e coso, anzi due donne. Un sito CB. E come te? Amico CB. No, già hanno fatto un sito a parte. Vai su Facebook, poi cerchi amico CB e te lo dai. Chiappa. Da niente magari che da voi non modula già nel manco, o no? Sì, qualcuno che non modula c'è, infatti chiede consigli, che da tanto tempo che non modula, si vuole ricomprare tutto, chiede consigli se c'è gente, se non c'è gente, c'era uno di Bologna che diceva che ha comprato tutto ma se ne è mezzo pentito perché più che camionisti dicendo parola ci dice che non sente, gli ho detto io ieri per dire ho parlato con un camionista, ma era molto educato, era di quei camionisti che c'è tanti anni, frequenta, e ha detto che lui gli piace la radio pulita, la radio educata e cose varie. E l'ha accompagnato un bel po' di chilometri. si chiamava Papà Palermo. Papà, già, mi ha detto già. E vabbè, sicuramente sì, si potrebbe entrare lì, eccetera, eccetera, scambiare due capolatte così, ma sinceramente io, per come la vedo io sono CB e CB voglio essere, la radio la devo fare, è quello, il mio pensiero è quello. E anche una radio pulita, una radio senza parolacce, ecco, queste cose qua. A me piace una radio così pulita. E siamo stati tre quarti d'ora parlando, buoni, ha fatto un bel po' di chilometri parlando con me. Appagappa. Sì, no, non metto in dubbio quelle cose lì, no, io ti sto dicendo che il sito sì, ma... Cioè, se uno è CB deve essere CB, la radio, il baracchino lo deve usare, punto. Deve fare la radio come la facciamo noi. Non è che deve stare GIB, bom bom bom bom bom bom, e da poi non fai il CB che deve essere proprio. È quello che ti volevo dire io. Ah, ecco, che ho capito. Ma quello si sembra di dubbio. Ma c'è qualche nostalgico magari che l'ho avuto e poi ha mollato, adesso vorrebbe riprendere, sta chiedendo consigli magari che tipo di antenna va meglio adesso, che tipo di apparato, come fare una stazione, perché lui era stato che non riesce, non ha più l'apparato. Sono dei nostalgici, no? Che hanno voluto tanti anni fa e adesso l'hanno ripreso. Appagappa, e lo so, e si comincia piano piano come abbiamo fatto noi, e via. Poi se uno non esibì di cose impara subito, ci mette pochi secondi a imparare tutto, a capire quello che deve fare anche. Io non ci ho messo più di tanto, Io ho preso l'apparecchiatura e l'ho piantata e Appagappa, ma... Uno che è stato CB per tanti anni sa già dove mettere le mani, sa come si deve comportare pure. Poi c'era qualcuno che chiedeva come poteva fare per mettere un bip. Io gli ho scritto che ci c'erano anche i microfoni, con lui se no doveva mettere la scheda. Ci sono le schede che hanno il bip. E se non la si senta? No, a lui piaceva molto, ma non lo aveva nel suo apparato. Ha detto, guarda, ci sono dei microfoni che rimontano e sono anche amplificati. Vedi un po', quelli della Midland prima ce li avevano, ma adesso non so se esistono più. Chiappa, questa dettagli ce l'ha, sì. Chiappa. Non è che sia bellissimo, però va bene. Mi dà l'impressione di una cosa di giocattolo, perché tutta colorata in giallo e non sembra una cosa professionale, sembra una cosa di giocattolo. Chiappa, l'apparenza inganna. Infatti, se non lo vede non sa manco cosa stai usando. A me piace così, mi piace originale invece già, per come l'ha fatto la ZG, il suo design. Poi magari a modificarlo lo posso modificare, come è stato già fatto, però il design mi piace come l'ha fatto la ZG. Infatti dicete che l'ha fatto tutto nero, completamente. Ma questo G l'ha fatto in coso giallo e già lo deve essere, secondo me. Sì, beh. Comunque è un bel sito, te ne renderai conto anche come lo apri, c'è il disegno che c'è, ti appare il baracchino, la musica, so quello che lo fa. Chiappa, come hai detto che si chiamava? Amico CB. Chiappa gatto, e già c'entrerò in questi giorni a vedere cos'hai. numero di gente, c'è sempre gente nuova. Già, poi gaffa. Già vedo un po' di vedere, dai. Ma tu mi sembra che l'avevi lasciato così, vero? Quale è Antonio? Sì, è originale. Giappa, l'M93, è uguale all'M95, solo che questo c'è il VIP e quello là non ce l'ha, tutto qua il discorso. Io ho preso quello perché non ne avevano altro. Già è buono, già. Ho quello lì a tu perché non ne avevano altro, mentre c'è questo qua, se ti interessa, sai che differenza c'è, il VIP mi manca. E vabbè, quello non è un problema, c'è un apparato. Gappa, ed è buono già, già vanno bene, non ho mai sentito, poi è robusto anche, sembra così ma è robusto. Io l'ho aperto questo qua per vedere se si poteva, ci avevo anche il tasto per sostituirlo, ma ci sono i pezzi troncati dentro. Gappa, e poi questi, comunque questi qua sono robusti più da 10.000, o che non ha l'eco, però c'è un modello che c'ha l'eco, lo sai? Che cosa, è quello lì? Gappa. No, non sapevo. Ne ho visto uno che c'ha la musica. Musica? Gappa su internet. Basta andare sui peli, vedi. Ci sono anche con la musica. Vedi. Ma non lo so che tipo di musica sia, sinceramente parlando non lo so. Poi c'è scritto microfoni musicali. Esatto, di con effetti strani sicuramente. Ma poi c'è quello che cambia le voci, quello lì deve essere forte. Una cosa del genere la voglio acquistare. Entro la mia voce, anzi, la fa grossa, non mi riconosco. Cioè, poi c'è qualcuno che vuoi far arrabbiare. A Paoletto Falcone li usavano, queste cose qua, lo facevano a Didario, me lo ricordo. C'era uno che ce l'aveva, aspetta, come si chiamava, ma... non mi viene il nome. Papà, ehi, è gare che non lo potete arrabbiare, tu. Gappa. I tempi di Falcone erano tempi allucinanti. Già lo so, già ne facevano un po' paraccio. Ma bellino questo bip. A pubi? Invece l'altro dell'altro apparato fa bip. Non ce l'ho mai avuto io il bip come ce l'hai tu, per esempio. Ma non l'ho mai messo. Ma dall'apparato direttamente? No, dall'apparato ce l'ho, ma è diverso. I bip come ce li avete voi, quelli normali. Mi è dell'apparato un attimo. Ehi, adesso vedi, va bip. Io quello così non ce l'ho mai avuto. Per dire, quello dell'Alan 48 è secco, fa pip. L'Alan 48 non ce l'ha. L'ho modificato, no? Qui c'è tutta un'altra cosa. Tutto anche il bip diverso. Io lo so che il 48 normale non è, a meno che gli metti un microfono col bip. Cappa, però sai che se tu questo qua ce lo metti nel 48 normale cambia il bip. E pare cricciato qua. Capito? Ia, te lo sto convincendo, perché non ti ha ascoltato. Perché avevano quella già portata di mano, non te lo vuoi trovare a fatto il DVD. Ieri ce l'ho ancora il 48. Mi ha detto Papà Palermo mi ha detto tienitelo conto la 48 normale perché non si trova più, è manco qua a Palermo. C'è gente che impazzisce a cercarlo per farselo modificare. Già lo so. No, a quello io l'ho sempre tenuto già. Quello c'è un po' caldo, però l'avrei tenuto lo stesso. Aveva l'apparato fatto da Lumancone, è proprio qui la vabbè. Quello lì? Papà Palermo, c'aveva il 48 modificato da Lumancone. Ma non lo conosce appena Lumancone? Non lo conosco di viso, però me lo stava dicendo lui che è abbastanza in gamba facendo. Ma non sa che di nomi, no, c'è la zitta. Cos'è un chiese di zette? Ce n'erano altri anche che sono entrati, entravano però poi sparivano, non gli mancava la propagazione, invece lui lo sentiva sempre bene, forte. Cappa, la si chiama via Burua, che cosa redda? 9.5 mi arrivava a me, da 9.5 non se n'è andato. Deve essere che aveva qualche cosettina. No, già l'ha detto che c'era. Che aveva un aiutino. E scappa. Vabbè, è logico che va. Ti tiene il segnale fisso. Questo lo chiamano Papà Palermo perché è l'organizzatore degli incontri che fanno tra CB e lui è quello che organizza tutto, sempre il papà di tutti, capito? Perché lo chiamano Papà Palermo, ma oggi ha organizzato anche l'ultimo raduno CB che ha organizzato, l'organizza tutti e ogni anno lo vuole fare in una città diversa della Sicilia, Palermo, Catania, Siracusa, Ragusa, capito? Gappa. Lì sono in molte, mi sa, Lì sì, lì. Ma sono quasi tutti camionisti, Gappa. Ma penso che ci sarà anche molte a casa. Non lo so, ce n'era una in macchina, che stava parlando insieme a noi, che si chiama Vanino. Quello lì io lo sentivo poi. Immaginate tu la storia, allora questo di Palermo, papà Palermo, l'ha sentito sino a un pezzo, poi l'ho dovuto fare da ponte io, dalla Sardegna, ed era in Sicilia questo qua, non lo sentiva, io lo sentivo dalla Sardegna, poi è entrato uno di Nuoro, lui lo sentiva io. Vabbè, così, già si sa che è così, la propaganda. Pagata. Una cosa allucinante, boh. È un po' strana la storia. Noi che siamo più vicini ci sentiamo e loro ci sentono. Poi come che uno arriva cosa ne so, dopo arriva a Olbia e tu non lo senti più. Magari chi in propagazione intende, ti fa la pompa. Vabbè, quello non è. Magari in linea d'aria più vicino a lui. Non si apre così, si apre, non è che sia in linea d'aria, non si apre così. A lui lo sente e tu non lo senti, perché a te ti fa distanza, ti fa quel segnale, ti fa ostacolo. A lui non glielo fa l'ostacolo, è tutto qua il discorso. E il senso che intendi anche, c'è la stessa cosa. Se lui è più libero nella zona, non è che mi arriva più libero lui che io, lui viene da dietro e non prende le montagne, io arrivo da davanti, ma c'è le montagne che ti ostacolano. Chiappa, c'è l'ostacolo, ma per lui non c'è l'ostacolo, perché lì va in diversa maniera l'onda, è tutta una cosa strana, particolare. È roba di atmosfera, di onde. Dice uno profano, dici che sei scemo, puro, eppure così. E così si è appurato, oppure c'è quello magari che ti arriva forte, tu lo chiami e non ti intendi. Eppure a te ti arriva forte. Ma su lui pure è successo un sacco di volte. Sembra che ti stia quasi prendendo in giro, che non ti stia facendo entrare lui, ma non è così, no. anche Gigi me l'ha detto molte volte, la propagazione la sentiamo forte, ma a parlarci non ci riusciamo. Scappa. Quel discorso lì è successo un sacco di volte. Appagata. È appurato anche la macchina. Molte volte sembra che ti stia entrando in casa, dentro la cotta su un furto e loro non ti sentono. Scappa. E poi con l'antennone grosso anche, il batti forte onda anche. Ma non c'è Cristo che valga, quando non c'è la propagazione anche per lui, quella è la ragione. Quando c'è per lui è un casino perché ti chiamano in centro, no, non fa fare chiamata che ti chiama in seconda, non è colpa di più lui. Chiamma. Ma poi quando c'è la propagazione, senti, cioè non c'è antenna che vale, cioè quando intendi lui minore. Cioè, che sia piccola, che sia grande, ti intende sempre in morti, ecco, come non da di qua. Ehi, dipende sempre dalla zona. Papà, ma se comunque ti intende che no. Cioè, passi, ti intende sempre nel corpo di qua, che sia piccola, che sia grande, lì non conta molto, l'antenna, cioè ci vuole, però lì contano i batti, la relazione e tutte queste cose qua. Ti basta anche un quarto d'onda e arrivi morti lo stesso, non è che vi voglia chissà che cosa. Perché il problema succede quando invece ci sono ostacoli, allora lì il problema è quello, è buco. No, ma diciamo che se c'hai l'aiutino sempre meglio, devi sempre più forte, più chiare cose. Tu uscirà anche con 3-4 va. Ma dico che noi così, quando arrivo in forza a te, arrivo in forza a me, quando la propagazione, per poco di fa. Arrivano con i mattesi segnali puro, forse è pure più forte. È successo tante volte, è successo. Certamente se ve ne è uno che è andato a poi da là, cioè anda verso cosa ne so, dopo le gallerie, eccetera, eccetera, lo senti più forte tu che io. Dipende anche dall'antenna, tante volte l'antenna quando è più lunga, più cose, riesce a ricevere meglio, c'è poco da fare. Ma l'antenna tua fa miracoli? Già lo credo, ma comunque io guarda, non gli posso dire niente con questa Sirio perché mi ha dato tanta soddisfazione e ancora me ne sta dando, cioè è buona. Sirio devo dire che è buona, no, non mi posso lamentare. Prima mi stava dicendo da nel campo e ci ha messo la 2001. 2001 l'EM? E che te l'ha messo? Prima. E beh, avanta. Lei ha voglia, ha detto che un suo amico si è comprato la Midland e non si è via nulla. Ma si è comprato il suo amico? L'antenna Midland e non si è via nulla. Se dallo stesso punto che siamo io arrivavo forte, 9.10, 9.20, e almeno lo sentivano uguale. E che antenna si è comprato lui? Chi se la PC5? Non lo so, mi ha detto della vita, ma non so come appena si. Sì, sicuramente l'avrà dato come ti dava via Giuseppe, che non prenda nulla. Cioè non è una grande antenna. L'antenna buona della Midland è la Turbo 48, quella l'ultima uscita. Quella che ha pensato Massimiliano sarebbe. Cappa, quella che c'ha Giuseppe in camion, quella è buona, ma l'altra non vale a niente. Io quella amido, non li ho provate, ma mi sono messo via due. No, non vuoi fare niente, quella della PC5, tutti dici così. C'è una buona antenna della Midland, ci vuole l'antenna da turbo 48. L'affi non sono un granché. Infatti. E le buone erano la LEM, la Sigma e la Sigma, le uniche tre tipi di antenne che io conosco, perlomeno che erano buone. Ma ti dico che anche le Sidio mi sono sempre piaciute perché hanno prese allucinanti, cioè sono molto buone. Vabbè, le Sidio le ho avuto poche, sì. Ho avuto quelle con lo stupido regolabile, ma sono una baranoia. Sì, regola, non è stato detto quanto, ma prima di farcela, aiuti. No, ma le ultime non sono così, no. Infatti hanno cambiato tutto. Hanno cambiato anche frequenza, presidente. Perfetto. Non è con questa, è un amore, è una buona antenna, la 2000 Turbo Sirio. Io. Anto, io ti saluto, ti auguro buonanotte. Sto per addormentare, non ho visto che fosse il caso, non so cosa, poco fa ma proprio aggabbato, mi sono addormentato come niente. Papà, ciao ciao, buonanotte, ciao, ci risentiamo, buon signorino. Ciao a tu, sono di ciao, ciao, ciao.